Ogni volta che Marcos aveva fatto visita in casa di sua sorella Nivea, si era fermato per vari mesi, provocando la gioia dei nipoti, specialmente di Clara, e una tempesta nella quale l'ordine familiare perdeva il suo baricentro. La casa si riempiva di bauli, di animali imbalsamati, di lance indiane, di fagotti da marinaio. Dappertutto la gente andava inciampando nei suoi arnesi inauditi. Comparivano insetti mai visti, che avevano fatto il viaggio da terre remote per finire schiacciati sotto la scopa implacabile della nana in un angolo qualsiasi della casa. Il modo di comportarsi dello zio Marcos era quello di un cannibale, come diceva Severo. Passava la notte facendo movimenti incomprensibili nel salotto, che, si seppe poi, erano esercizi destinati a perfezionare il controllo della mente sul corpo e a migliorare la digestione. Faceva esperimenti di alchimia in cucina, riempiendo tutta la casa di fumate fetide e rovinava le pentole con sostanze solide che non si potevano staccare dal fondo. Mentre quasi tutti cercavano di dormire, trascinava le sue valigie per i corridoi, provava suoni acuti con strumenti selvaggi e insegnava a parlare spagnolo a un pappagallo la cui lingua materna era di origine amazzonica. Di giorno dormiva in un'amaca che aveva steso tra due colonne dell'atrio, senza altri indumenti che un perizoma che metteva di pessimo umore Severo, ma che Nivea giustificava perché Marcos l'aveva convinta che così predicava il Nazareno. Clara ricordava perfettamente, sebbene allora fosse molto piccola, la prima volta che suo zio Marcos era arrivato a casa di ritorno da uno dei suoi viaggi. Si era installato come se avesse dovuto rimanerci per sempre. Di lì a poco, stufo di presentarsi a riunioni di signorine dove la padrona di casa suonava il piano, di giocare a carte e di eludere le insistenze dei suoi parenti affinché mettesse la testa a posto e cominciasse a lavorare come aiutante nello studio legale di Severo Del Valle, si era comprato un organetto e si era messo a girare per le strade, deciso a sedurre sua cugina Antonieta e al tempo stesso a rallegrare il pubblico con la sua musica a manovella. La macchina altro non era che una grande cassa rognosa munita di ruote, ma lui l'aveva dipinta con motivi marinari e gli aveva messo un falso fumaiolo da nave. Aveva l'aria di una cucina a carbone. L'organetto suonava alternativamente una marcia militare e un valzer e, tra un giro di manovella e l'altro, il pappagallo, che aveva imparato lo spagnolo, sebbene conservasse ancora il suo accento straniero, richiamava la folla con strida acute. Inoltre, da una cassettina tirava fuori col becco certi foglietti per vendere il futuro ai curiosi. I fogli rosa, verdi e azzurri erano così ben congegnati che coincidevano sempre con i più segreti desideri del cliente. Oltre ai fogli della fortuna, vendeva palline di segatura per divertire i bambini e polveri contro l'impotenza che smerciava a bassa voce ai passanti affetti da quel male. L'idea dell'organetto era nata come ultimo e disperato stratagemma per conquistare la cugina Antonieta, dopo che altre forme più convenzionali di corteggiamento erano fallite. Aveva pensato che nessuna donna in pieno possesso delle sue facoltà mentali avrebbe potuto rimanere impassibile di fronte a una serenata di organetto. E aveva fatto così. Si era piazzato sotto la sua finestra un pomeriggio verso l'imbrunire, suonando la sua marcia militare e il suo valzer, nel momento in cui lei prendeva il tè con un gruppo di amiche. Antonietta non gli aveva badato finché il pappagallo non aveva cominciato a chiamarla col suo nome di battesimo e allora si era affacciata alla finestra. La sua reazione non era stata quella che il suo innamorato sperava. Le sue amiche si erano prese la briga di diffondere la notizia in tutti i salotti della città e il giorno dopo la gente aveva cominciato a passeggiare per le strade del centro nella speranza di vedere con i propri occhi il cognato di Severo Del Valle che suonava l'organetto e vendeva palline di segatura con un pappagallo tarmato, semplicemente per il piacere di constatare che anche nelle migliori famiglie c'erano buoni motivi per vergognarsi. Di fronte all'imbarazzo familiare, Marcos aveva dovuto rinunciare all'organetto e scegliere metodi meno impegnativi per attrarre la cugina Antonietta, ma non aveva certo rinunciato ad assediarla. Comunque non aveva avuto successo, perché la giovane si era sposata di punto in bianco con un diplomatico di 20 anni più vecchio, che se l'era portata a vivere in un paese tropicale il cui nome nessuno era in grado di ricordare, ma che evocava negritudine, banane e palmizi. grazie al quale era riuscita a vincere il ricordo di quel pretendente che aveva rovinato i suoi 17 anni con quella marcia militare e quel valzer. Marcos era sprofondato nello sconforto per 2 o 3 giorni, al termine dei quali aveva annunciato che non si sarebbe sposato mai e che se ne andava a fare il giro del mondo. Aveva venduto l'organetto a un cieco e lasciato il pappagallo in eredità a Clara. Ma la nana l'aveva segretamente avvelenato con un'overdose di olio di fegato di merluzzo perché non poteva sopportare il suo sguardo lussurioso, le sue pulci e i suoi urli stonati che offrivano foglietti della fortuna, palline di segatura e polveri per l'impotenza. Era stato quello il viaggio più lungo di Marcos. Era tornato con un carico di casse enormi che si erano affastellate nell'ultimo cortile, tra il pollaio e il deposito della legna, sino alla fine dell'inverno. Al sopraggiungere della primavera le aveva fatte trasferire al Parco delle Sfilate, un terreno enorme dove la gente si radunava durante la festa nazionale per vedere i militari che marciavano al passo dell'oca copiato dai prussiani. Quando le avevano aperte, si era visto che le casse contenevano pezzi confusi di legno, di metallo e di stoffa dipinta. Marcos aveva trascorso 2 settimane a montare le varie parti, seguendo le istruzioni di un manuale in inglese che decifrava con la sua indomita immaginazione e con l'aiuto di un dizionario tascabile. Finito il lavoro, si era rivelato trattarsi di un uccello di dimensioni preistoriche con un muso d'aquila furiosa dipinto sulla parte anteriore, ali mobili e un'elica sul dorso. Aveva suscitato scalpore. Le famiglie dell'oligarchia avevano dimenticato l'organetto e Marcos si era trasformato nella novità del momento. La gente, durante le passeggiate domenicali, andava a vedere l'uccello. I venditori di ghiottonerie e i fotografi ambulanti facevano affari d'oro. Tuttavia, di lì a poco, l'interesse del pubblico aveva cominciato a diminuire. Allora Marcos aveva annunciato che non appena si fosse schiarito il tempo, aveva intenzione di sollevarsi con l'uccello e attraversare la cordigliera. La notizia si era sparsa in poche ore e si era trasformata nel fatto più discusso dell'anno. La macchina giaceva con la pancia a terra, pesante e goffa, con l'aspetto più di un papero ferito che di uno di quei moderni aeroplani che si cominciavano a costruire in Nord America. Niente della sua apparenza faceva supporre che avrebbe potuto muoversi e tantomeno sollevarsi e attraversare le montagne innevate. I giornalisti e i curiosi erano accorsi in massa. Marcos sorrideva impassibile dinanzi alla valanga di domande e posava per i fotografi senza dare alcuna spiegazione tecnica o scientifica sul modo in cui pensava di compiere l'impresa. C'era gente venuta dalla provincia per vedere lo spettacolo. 40 anni dopo, suo nipote Nicolas, che Marcos non aveva fatto in tempo a conoscere, riesumò l'iniziativa di volare, che era stata sempre latente negli uomini della sua stirpe. Nicolas ebbe l'idea di farlo a fini commerciali, in una salsiccia gigantesca piena d'aria calda, che avrebbe recato impressa una scritta pubblicitaria di bibite gassose. Ma quando Marcos aveva proclamato il suo viaggio in aeroplano, nessuno credeva che quell'invenzione potesse servire a qualcosa di utile. Lui lo faceva per spirito d'avventura. Il giorno stabilito per il volo si era annunciato nuvoloso, ma l'aspettativa era tanta che Marcos non se la sentiva di spostare la data. Si era presentato puntualmente sul posto e non aveva lanciato nemmeno uno sguardo al cielo che si copriva di grigi nuvoloni. La folla attonita aveva invaso tutte le strade adiacenti, si era arrampicata sui tetti delle case vicine e si era ammassata nel parco. Nessun comizio politico aveva mai riunito tanta gente finché, mezzo secolo dopo, il primo candidato marxista non avrebbe tentato con mezzi totalmente democratici di occupare la sedia presidenziale. Clara avrebbe ricordato per tutta la vita quel giorno di festa. La gente aveva indossato abiti primaverili, anticipando un po' l'inaugurazione ufficiale della stagione. Gli uomini in completo di lino bianco e le signore con cappellini di paglia italiana che quell'anno facevano furore. Gruppi di scolari sfilavano con i loro maestri portando fiori all'eroe. Marcos accettava i fiori e scherzava, accusandoli di sperare che lui si schiantasse per portargli i fiori al funerale. Il vescovo in persona Senza che nessuno gliel'avesse chiesto, era comparso con due turi Ferrari per benedire l'uccello e la banda della gendarmeria aveva suonato musica allegra e senza pretese, adatta al gusto popolare. La polizia a cavallo e con le lance aveva avuto difficoltà a trattenere la folla lontano dal centro del parco, dove si trovava Marcos vestito con una tuta da meccanico, grandi occhiali da automobilista e il suo casco da esploratore. Per il volo portava inoltre una bussola, un cannocchiale e certe strane carte di navigazione aerea che lui stesso aveva tracciato, basandosi sulla teoria di Leonardo da Vinci e sulle conoscenze astrali degli Inca. Contro ogni logica, al secondo tentativo l'uccello si era sollevato senza contrattempi e persino con una certa eleganza tra gli scricchiolii del suo scheletro e i rantoli del suo motore. Era salito cabrando e si era perso tra le nuvole, salutato da uno scoppio di applausi, fischi, fazzoletti, bandiere, rulli di tamburo della banda e aspersioni di acqua benedetta. A terra era rimasto il parlottio della folla attonita e degli uomini più istruiti che tentavano di dare una spiegazione razionale al miracolo. Clara aveva continuato a guardare il cielo fino a molto dopo che suo zio era diventato invisibile. Aveva creduto di individuarlo 10 minuti dopo, ma era solo un passero in volo. 3 giorni dopo, l'euforia provocata dalla prima traversata aerea nel paese era svanita e nessuno aveva più ripensato all'episodio, eccetto Clara, che scrutava instancabilmente le cime dei monti. Trascorsa una settimana senza notizie dello zio volante, si era pensato che fosse salito fino a perdersi nello spazio siderale e i più ignoranti prospettavano l'idea che sarebbe arrivato sulla Luna. Severo giunse alla conclusione, con un misto di tristezza e di sollievo, che suo cognato era caduto con la sua macchina in qualche fenditura della cordigliera dove non sarebbe mai stato ritrovato. Nivea aveva pianto sconsolatamente e aveva acceso alcune candele a Sant'Antonio, patrono delle cose perdute. Severo si era opposto all'idea di far dire qualche messa perché non credeva a quel mezzo per guadagnarsi il cielo e tantomeno per tornare in terra e sosteneva che le messe e le offerte, così come le indulgenze e il traffico di santini e di scapolari erano un commercio disonesto. Per tale motivo Nivea e la nana avevano fatto recitare il rosario di nascosto a tutti i bambini per 9 giorni. Frattanto, gruppi di esploratori e di alpinisti volontari lo cercavano instancabilmente per picchi e dirupi della cordigliera finché non erano tornati trionfanti e avevano consegnato alla famiglia un nero e modesto feretro suggellato. Avevano sotterrato l'intrepido viaggiatore con un funerale grandioso. La sua morte l'aveva trasformato in un eroe e il suo nome era rimasto vari giorni nei titoli di tutti i giornali. La stessa folla che si era riunita per salutarlo il giorno in cui si era sollevato con l'uccello era sfilata davanti al suo feretro. Tutta la famiglia l'aveva pianto come si meritava, meno Clara, che aveva continuato a scrutare il cielo con pazienza d'astronomo. Una settimana dopo la sepoltura, sulla soglia della casa di Nive e Severo del Valle, era comparso proprio lo zio Marcos in persona, con un allegro sorriso fra i baffi da pirata. Grazie ai rosari clandestini delle donne e dei bambini, come lui stesso ammise, era vivo e in possesso di tutte le sue facoltà, compresa quella del buon umore. Nonostante la nobile origine delle sue mappe aeree, il volo era stato un fallimento. Aveva perduto l'aeroplano e aveva dovuto tornare a piedi, ma non aveva alcun osso rotto e serbava intatto il suo spirito di avventura. Questo fatto rafforzò per sempre la devozione della famiglia per Sant'Antonio e non servì da lezione alle generazioni future che avrebbero tentato di volare con mezzi diversi. Legalmente, tuttavia, Marcos era un cadavere. Severo del Valle dovette impiegare tutta la sua conoscenza delle leggi per restituire al cognato la vita e la condizione di cittadino. All'apertura del feretro, davanti alle autorità competenti, si vide che avevano sepolto un sacco di sabbia. Questo fatto macchiò il prestigio fino ad allora incorrotto degli esploratori e degli alpinisti volontari e da quel giorno furono considerati poco meno che malfattori. L'eroica resurrezione di Marcos finì per far dimenticare a tutti la storia dell'organetto. Tornarono a invitarlo a tutti i ricevimenti della città e, almeno per un certo tempo, il suo nome fu riabilitato. Marcos visse nella casa di sua sorella per qualche mese. Una notte se ne andò senza salutare nessuno, lasciando i bauli, i libri, le armi, gli gli stivali e tutte le sue cianfrusaglie. Severo e persino Nivea stessa respirarono di sollievo. La sua ultima visita era durata troppo. Clara si sentì tanto addolorata che trascorse una settimana camminando come una sonnambula e succhiandosi il dito. La bimba, che allora aveva 7 anni, aveva imparato a leggere i libri di storie di suo zio e gli era vicina più di qualunque altro membro della famiglia per via delle sue facoltà divinatorie. Marco sosteneva che la rara virtù di sua nipote poteva essere una fonte di introiti e una buona occasione per sviluppare anche la sua chiaroveggenza. Era della teoria che questa attitudine fosse presente in tutti gli esseri umani, specialmente in quelli della sua famiglia, e che se non si manifestava in modo proficuo era solo per mancanza di allenamento. Comprò al mercato persiano una sfera di vetro che secondo lui aveva proprietà magiche e veniva dall'Oriente, ma che più tardi si rivelò essere solo un galleggiante di barca da pesca. La collocò sopra un pezzo di velluto nero e annunciò che avrebbe potuto vedere il futuro, scongiurare il malocchio, leggere nel passato e migliorare la qualità dei sogni, il tutto per 5 centesimi. I suoi primi clienti furono le serve del vicinato. Una di queste era stata accusata di essere una ladra, poiché la sua padrona aveva smarrito un anello. La sfera di vetro indicò il posto dove si trovava il gioiello. Era rotolato sotto un armadio. Il giorno dopo c'era la coda davanti alla porta di casa. Arrivarono i vetturini, i commercianti, i venditori di latte e d'acqua e più tardi comparvero di soppiatto alcuni impiegati del municipio e alcune signore distinte che scivolavano con discrezione lungo le pareti, cercando di non essere riconosciute. La clientela veniva ricevuta dalla nana, che sistemava tutti nella sala d'aspetto e riscuoteva gli onorari. Questo lavoro la teneva occupata quasi tutto il giorno, al punto da assorbirla, tanto che trascurava le faccende di cucina e in famiglia avevano cominciato a lamentarsi, perché l'unica cosa che c'era a cena erano fagioli secchi e marmellata di cotogne. Marcos aveva aggiustato la rimessa con certi tendaggi logori che in altri tempi erano appartenuti al salotto, ma che l'abbandono e la vecchiaia avevano trasformato in polverosi stracci. Lì accoglieva il pubblico insieme a Clara. I due indovini vestivano tuniche del colore degli uomini della luce, come Marcos chiamava il giallo. La nana aveva tinto le tuniche con polvere di zafferano, facendole bollire nella pentola destinata al bianco mangiare. Marco si indossava, oltre alla tunica, un turbante legato alla testa e un amuleto egizio appeso al collo. Si era fatto crescere la barba e i capelli ed era più magro che mai. Marco e Clara erano assai convincenti, soprattutto perché la bambina non aveva bisogno di guardare la sfera di vetro per indovinare quello che ciascuno desiderava udire. Lo sussurrava all'orecchio dello zio Marcos, il quale trasmetteva il messaggio al cliente e improvvisava i consigli che gli parevano azzeccati. Così la sua fama si era diffusa, perché tutti quelli che arrivavano al consultorio abbacchiati e tristi ne uscivano pieni di speranza. Gli innamorati che non erano corrisposti ottenevano un consiglio per accattivarsi il cuore indifferente e i poveri si portavano via sistemi infallibili per scommettere alle corse del cinodromo. L'affare era diventato così proficuo che la sala d'aspetto era sempre stipata di gente e alla nana cominciarono a venire capogiri a furia di stare in piedi. In quell'occasione, Severo non aveva avuto bisogno di intervenire per porre fine all'iniziativa imprenditoriale di suo cognato, perché i due indovini, rendendosi conto che le loro intuizioni potevano modificare il destino della clientela che seguiva alla lettera le loro parole, si erano spaventati e avevano deciso che quello era un mestiere da ciarlatani. Abbandonarono l'oracolo della rimessa e si spartirono equamente i guadagni, anche se in vero l'unica interessata all'aspetto materiale dell'affare era la nana. Fra tutti i fratelli del Vaje, Clara era quella che aveva più resistenza e più interesse ad ascoltare i racconti di suo zio. Li poteva ripetere tutti, sapeva a memoria diverse parole nei dialetti stranieri degli indiani, conosceva i loro costumi e poteva descrivere il modo in cui si trapassano le labbra e i lobi delle orecchie con pezzetti di legno, così come i riti di iniziazione e i nomi dei serpenti più velenosi e i loro antidoti. Lo zio era così convincente che la bambina poteva sentire nella sua stessa carne il bruciante morso delle vipere. Vedere il rettile strisciare sul tappeto tra le gambe della credenza di Palissandro e ascoltare le grida dei pappagalli fra le tende della sala. Si ricordava senza incertezze il percorso di Lope de Aguirre nella sua ricerca di Eldorado, i nomi difficili da pronunciare della flora e della fauna visitata o inventata dal suo meraviglioso zio. Sapeva che i lama bevono tè salato con grasso di yak e poteva descrivere nei dettagli le opulenti indigene della Polinesia, le risaie della Cina e le bianche pianure dei paesi del nord, dove il gelo perenne ammazza le bestie e gli uomini che si distraggono, pietrificandoli in pochi minuti. Marcos possedeva molti diari di viaggio dove scriveva i suoi percorsi e le sue impressioni, e così pure una collezione di carte geografiche e di libri di racconti, di avventure e perfino di fate che custodiva nei suoi bauli nella stanza delle cianfrusaglie in fondo al terzo cortile della casa. Di lì uscirono per popolare i sogni dei suoi discendenti finché non furono bruciati per sbaglio un secolo dopo in una pira infame. Dal suo ultimo viaggio, Marcos tornò in una cassa da morto. Era deceduto a causa di una misteriosa pestilenza africana che l'aveva poco a poco fatto diventare rugoso e giallo come una pergamena. Sentendosi malato, aveva intrapreso il viaggio di ritorno nella speranza che le cure di sua sorella e la saggezza del dottor Cuevas gli avrebbero restituito la salute e la giovinezza, ma non aveva resistito ai 60 giorni di traversata in nave e all'altezza di Guayaquil era morto, consumato dalla febbre, delirando di donne profumate di muschio e di tesori nascosti. Il capitano della nave, un inglese di nome Longfellow, era stato lì lì per gettarlo in mare avvolto in una bandiera, ma Marcos si era guadagnato l'amicizia di molti e aveva fatto innamorare tante donne a bordo del transatlantico, nonostante il suo aspetto inselvatichito e il suo delirio, che i passeggeri glielo avevano impedito, e Longfellow aveva dovuto immagazzinarlo insieme alle verdure del cuoco cinese per preservarlo dal calore e dagli insetti del tropico, finché il falegname di bordo non gli aveva improvvisato una cassa. Al Callao si era trovato un feretro consono e qualche giorno dopo il capitano, furioso per le noie causate da quel passeggero alla compagnia di navigazione e a lui personalmente, l'aveva scaricato senza tanti riguardi sul molo, stupito che nessuno si presentasse a reclamarlo né a pagare le spese straordinarie. Più tardi si era reso conto che il servizio postale in quelle latitudini non aveva la stessa affidabilità di quello della sua lontana Inghilterra e che i suoi telegrammi si erano volatilizzati lungo il cammino. Fortunatamente per Longfellow si era presentato un avvocato della dogana che conosceva la famiglia del Valle e si era offerto di incaricarsi della faccenda, sistemando Marcos e il suo complesso bagaglio in una carrozza presa a nolo e portandolo in città all'unico domicilio fisso che conosceva, la casa di sua sorella. Per Clara, quello sarebbe stato uno dei momenti più dolorosi della sua vita, se Barrabás non fosse arrivato mescolato agli arnesi dello zio. Ignorando la confusione che regnava nel cortile, il suo istinto la guidò direttamente nell'angolo dove avevano spinto la gabbia. Dentro c'era Barrabás, era un ammasso di ossicini coperti da un pelame di colore indefinibile, pieno di chiazze spelate che facevano infezione, con un occhio chiuso e l'altro cisposo di pus, immobile come un cadavere in mezzo alle sue stesse sporcizie. Nonostante l'aspetto, la bambina non ebbe difficoltà a riconoscerlo. «Un cagnolino!» strillò. Si prese cura dell'animale, lo tolse dalla gabbia, lo cullò tenendolo contro il petto e con intenzioni da missionaria riuscì a lavargli il muso gonfio e secco. Nessuno si era preoccupato di dargli da mangiare da quando il capitano Longfellow, che come tutti gli inglesi trattava meglio gli animali dei cristiani, l'aveva depositato con i bagagli sul molo. Finché il cane era rimasto a bordo, accanto al padrone moribondo, il capitano gli aveva dato da mangiare con le sue stesse mani e l'aveva portato a spasso in coperta, prodigandogli tutte le cure che aveva lesinato a Marcos, ma una volta arrivato in terraferma era stato trattato come parte del bagaglio. Clara divenne una madre per l'animale, senza che nessuno le contendesse questo incerto privilegio, e riuscì a rianimarlo. Un paio di giorni dopo, una volta calmata la tempesta, dell'arrivo del cadavere e della sepoltura dello zio Marcos, Severo notò la bestia pelosa che sua figlia teneva in braccio. «Cos'è quella roba?» chiese. «Barrabás», disse Clara. «Consegnalo al giardiniere che se ne liberi, può attaccarci qualche malattia», ordinò Severo. Ma Clara l'aveva adottato. «È mio papà, se me lo toglie, giuro che smetto di respirare e muoio». E Barrabás rimase a casa.